Adesso, prima di cominciare, do la parola immediatamente a Sandro, che ricorda anche Valerio Evangelisti, che era il direttore di Carmilla. Buonasera a tutti. Parliamo un attimo di Valerio Evangelisti, alcuni di voi lo conosceranno, altri meno. Non tanto in quanto direttore di Carmilla, che è il giornale che lui ha contribuito a fondare anche come cartaceo. Posso dire una cosa, che sicuramente è stato un grande intellettuale Valerio Evangelisti, è qualcosa che si sentirà nella cultura italiana, chiaramente nella cultura italiana d'opposizione, nella cultura italiana, se vogliamo dire, di sinistra, perché tutta la sua vita, prima come ricercatore universitario, poi come scrittore, è sempre stata dedicata, prima di tutto, a sottolineare il conflitto e a ricordare il conflitto sociale e di classe. Non c'è romanzo, non c'è intervento di Valerio, non c'è altra cosa che lui abbia pubblicato che non avesse al centro questa attenzione sul divenire della società, che lui ha interpretato in maniera multiforme, sia nella sua scrittura, dopo dirò alcune cose, sia nella sua vita. Per fare un esempio, la prima rivista che lui fonda a Bologna negli anni 80 si intitolava Progetto Memoria. Era un periodo in cui di memoria non si parlava ancora tanto, ma c'era già la percezione del fatto che la memoria della lotta di classe in tutte le sue forme, anche di quello che avveniva in quegli anni, rischiasse di essere persa. Ci fu Progetto Memoria, che fu un progetto importante, di cui uscirono un po' di numeri, ma poi si accorse anche Valerio, e io è per questo che ormai da molti anni scrivo su Carmilla e mi sono trovato bene con lui e con l'impostazione di Carmilla, è che non si poteva avere soltanto una rivista rigidamente politica. Bisognava misurarsi con l'immaginario. Se voi andate a vedere il sottotitolo di Carmilla Online, qual è? Cultura, letteratura e immaginario di opposizione. E da lì abbiamo tirato fuori tante cose. L'immaginario, perché non bisognava avere una visione che fosse limitata a quella classica, pesantemente marxista, della questione materiale che determina tutto, e poi ci sono le sovrastrutture. Talvolta sono le sovrastrutture che poi finiscono con l'incidere con la classe, con le questioni materiali. Quindi lì bisogna misurarsi, e bisogna misurarsi non soltanto con una critica dell'immaginario capitalistico, ma anche producendone uno nuovo. E forse per questo che Valerio Evangelisti ha, unico in Italia, ha rinnovato completamente il discorso sulla fantascienza. Il suo ciclo di romanzi di Heimerich sono stati una novità dall'inizio fino alla fine, l'ultimo è uscito pochi anni fa. Questa capacità sua di mettere al centro di una storia il personaggio cattivo, l'inquisitore spagnolo Nicolás Heimerich, che è effettivamente esistito, è stato un inquisitore catalano, che è quello che ha creato il manuale degli inquisitori, e lui lo mette al centro delle sue storie, storie che però sono sempre dei trittici. In ogni romanzo di Heimerich voi trovate una storia ambientata nell'epoca di Heimerich, grosso modo nel 1400, una storia ambientata in un nostro futuro prossimissimo e una storia ambientata in un lontano futuro. Queste storie così distanti tra di loro hanno sempre dei collegamenti, come dire, quello che capita, i conflitti, le cose che ci sono, non si chiudono mai lì, hanno delle conseguenze, conseguenze che di solito possono diventare, più passa il tempo, più se non sono risolti quei conflitti e quelle contraddizioni, più diventano catastrofici e enormi. Basterebbe vedere alcuni suoi romanzi in cui parliamo già degli anni 90, di un esercito europeo, l'Euroforce, che si scontra in giro per il mondo con la RAKE, che era un'organizzazione, pensate un po', di milizie slave fasciste uscite dalla distruzione del mondo dell'Unione Sovietica e che erano in competizione tra di loro per il possesso del mondo. Vi consiglio un titolo a casa, La Scala per Picatrix, dove ci sono delle immagini di guerra in Africa che sono assolutamente adatte a simboleggiare la tragicità odierna. Che si scontrano tra di loro e poi da parte c'è ancora sempre l'America, qualche altra potenza. Quindi Era, vorrei dire, Valerio era un grande visionario. Un grande visionario con la capacità di scrivere per tutti. Io spesso con lui, oggi leggerete molti articoli su, potrete leggere molti articoli su Valerio Evangelisti, ma il suo modello, io gli ho sempre detto, lui era d'accordo, era Emilio Salgari. Lui scriveva una, aveva una scrittura d'avventura che affascinava il pubblico in modo semplice, in cui ci metteva dentro tante cose, spesso l'imperialismo, perché ricordiamoci che personaggi come Che Guevara, al di là di ogni giudizio, disse di essersi formato leggendo tutti i romanzi di Salgari. E io non li ho letti proprio tutti, ne ho letti un bel po', ma nel ciclo dei pirati della Malesia, nel ciclo delle Filippine, nel ciclo degli orrori della Siberia, ci sono tutte le storie dell'imperialismo di quegli anni e anche successivo. Così come nel ciclo del West c'è una previsione della distruzione degli indiani che non sanno adattarsi al lavoro dei bianchi, che è assolutamente precorritrice di ogni critica poi successiva alla strage dei nativi. No? Quindi in Salgari c'era qualcosa, certo in Valerio c'è molto di più, c'è una più chiara coscienza politica, lui ha fatto diversi cicli, il più importante è quello di Heimerich, poi vi è il ciclo dei pirati, dove proprio fa vedere come sia nato il capitalismo. Ecco, a differenza di Salgari sui pirati, il nostro Valerio non aveva il romanticismo del corsaro buono. Il corsaro e il pirata era abbastanza un bandito. E d'altra parte Adam Smith, nella Ricchezza delle Nazioni, dice che il prototipo del self-made man è il corsaro inglese che rapina gli spagnoli, rapina tutti e si arricchisce. Quindi voglio dire, c'è il ciclo sugli Stati Uniti d'America, con l'Industrial Worker of the World e tutte le battaglie, c'è il ciclo sul Messico, c'è il ciclo sulla storia italiana dalla fine dell'Ottocento al 45, il Sol dell'Avvenire, che credo sia uno dei cicli che l'ha impegnato di più, dove la ricostruzione della nascita del fascismo e dell'antifascismo è fatta benissimo. Che dire di Valerio? Ci mancherà enormemente, io credo che continuerà a vivere nei suoi libri. Aggiungo ancora una cosa. Ho capito una cosa di lui. Lui più di una volta ci aveva detto che amava molto un libro di Auguste Blanqui, L'eternità attraverso le stelle. Non so se qualcuno di voi l'ha mai visto. Auguste Blanqui, vecchio, in carcere, scrive quando pensa di essere all'ergastolo, poi in realtà uscirà ancora, scrive questo libro in cui lui immagina un universo che è fatto da infiniti mondi paralleli. Dove lui diceva, beh, muoio qui ma sarò in un altro e purtroppo magari in un altro a rifare le stesse cose di qui. Però questo libro, questa visione di una eternità data dal parallelismo dei mondi possibili, che la fisica di oggi non esclude tra le altre cose, piaceva molto a Valerio. E io l'ho capito, lui si è costruita la sua eternità. Cioè in fin dei conti in ognuno di questi libri lui c'è. Non solo perché conoscendolo uno si rende conto che alcune caratteristiche fisiche di comportamento di Nicolas Heimerich erano sue. Difatti noi in redazione lo chiamavamo Magister. Se voi leggete i romanzi di Heimerich, lui è il Magister, no? E noi lo chiamavamo Magister. Ma in ognuno di questi libri c'è un pezzo della sua personalità, della sua passione politica, della sua passione letteraria, della sua passione culturale. E quindi credo che sia possibile fare proprio un parallelo tra quegli infiniti mondi che aveva pensato Blanqui, chiuso nel carcere, sperando in qualche modo di evadere almeno con lo spirito da una carcerazione molto dura, a questa infinità di libri, che sono veramente molti, che è scritti, credo che mettere a posto l'opera omnia di Valerio sarà piuttosto complesso, che gli permettono di sopravvivere. Ecco, qui esattamente, questo è il libro di Blanqui, della SE, ed è, dicevo prima, Valerio era un grande visionario, Blanqui altrettanto, cioè non si scherza. Ecco, e vorrei ricordarlo semplicemente così. Per noi è stato veramente importante e tutti quelli che l'hanno conosciuto ne hanno riconosciuto la grandezza.